Già la temperatura è molto bassa, sarà intorno ai 25-30 gradi sotto zero. Ci si mette anche l'effetto wind chill del vento che abbassa la temperatura percepita dal corpo umano, più l'ossigeno che non ci permette di scaldarci, arriviamo a temperature veramente molto basse. Per cui anche in quelle condizioni fissare una corda, mettere gli ancoraggi e potersi calare da una parete così verticale, ghiacciata, piena di rocce diventa veramente molto complesso. Io purtroppo facendo queste manovre ho avuto un congelamento a un paio di dita delle mani e dei piedi, che però erano purtroppo necessari per poter, come si dice, fare le corde doppie e scendere verso valle. Cioè, abbiamo passato veramente dei momenti piuttosto critici che però abbiamo affrontato, credo, con grande professionalità, accettando il fatto che la montagna in quel momento non ci voleva, e quindi abbiamo messo tutto noi stessi per scendere di nuovo lo sprone mamme e poi andare verso il campo base.